Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Giovedì 23 aprile del 2009, le 14 in punto, 87.900 la modulazione di frequenza, siete su Radio Onda Rossa. E questo è l'appuntamento settimanale con il cinema che prende il nome di Visionari. Qualsiasi informazione potete trovarla sul, per quanto riguarda la scaletta, sul sito della radio, ossia ondarossa.info, dove troverete gli ospiti. Intanto gli ospiti di questa puntata, poi il link per riascoltare quella precedente, le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione e i link per dare un'occhiata a interviste, conferenze stampa, recensioni e poi per quanto riguarda i film sul piccolo schermo, la programmazione settimanale televisiva. Andiamo subito a contattare i nostri ospiti. Trovato a Giovanni Minerba, direttore del 24esima edizione del Torino GLBT Festival da Sodoma ad Hollywood dal 23 al 30 aprile. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Come va? Scusate la voce che mi sta andando via. Allora, cosa ci dici? Cosa vi dico? Incomincia la maratona tra qualche ora. Sì. Fino al 30 aprile, hai già annunciato tu, spero per tutti 8 giorni di buon cinema che credo ci sia buon cinema per tutti i gusti, da quelle che sono state le scelte abbastanza oculate. Senti, per ogni tipo di pubblico. Senti Giovanni, intanto partiamo dal fatto che si tratta di una rassegna storica, 24 edizioni, insomma c'è una storia alle spalle. C'è sicuramente una storia alle spalle, c'è anche 24 anni in più sulle mie spalle. Senti, durante tutto questo... Mi porto bene però, eh? Sì, ma si sente anche dalla voce. Sì. Tutto questo arco temporale, sostanzialmente quali modifiche ha vissuto il festival, come si è sviluppato? Raccontaci un po'. Ma il festival è iniziato nell'86 come, diciamo, come rassegna, come piccolo festival, chiamiamolo come vogliamo. Poi dal 90 abbiamo avuto, come dire, il beneplacito dal ministero che ci ha riconosciuti come festival. Anno per anno il festival è cresciuto, ovviamente non ha più le caratteristiche di 23 anni fa, di 24 anni fa, ma è un festival è vero con tutti i suoi carismi che ha bisogno. Sicuramente è cambiato molto anche il campo cinematografico rispetto a quello che erano le esigenze cinematografiche di 24 anni fa, sono diverse da adesso. Allora si produceva giro per il mondo, ma non con una imponenza, un'importanza come adesso. Quindi è cambiato anche quell'aspetto lì, c'è più possibilità, c'è più scelta adesso. Ecco, a proposito di scelta, da dove provengono le opere? Ma guarda, c'è un da tutto il mondo, anche se la parte centrale, fra virgolette, cioè i film in concorso sono quest'anno, combinazione, sono in maggioranza orientali, sì, Filippine, eccetera. Ma però, come rispetto a tutto il programma, c'è un programma di film che arriva da tutte le parti del mondo. Quest'anno abbiamo anche una buona rappresentanza italiana, con due documentari in concorso e altri due, tre fuori concorso, quindi diciamo siamo anche abbastanza contenti rispetto al panorama italiano. Volevo chiederti, negli ultimi tempi, cioè, adesso il riferimento chiaramente nello specifico è a quest'anno, l'identità sessuale come è vissuta nel mondo, quali restrizioni ha, quali miglioramenti ci sono stati dal punto di vista dei diritti? Allora, dal punto di vista dei diritti ci sono stati dei miglioramenti in vari posti, in varie nazioni del mondo, piuttosto che dell'Europa, tranne che l'Italia, ovviamente, dico ovviamente perché è così, non se ne parla, ma in Italia abbiamo appunto, io dico sempre da un po' di anni a questa parte che abbiamo una politica abbastanza, una politica dei politici abbastanza schizofrenici, che ti puoi fare di tutto e di più, fino adesso ci siamo ritrovati con di meno. Se tu poi vai a leggere che in mi sembra in Perù c'è una legge per diritti, in Italia non c'è, non per declassificare il Perù, ma siamo ad altri livelli. Nello stesso tempo in Francia sappiamo tutti qual è la realtà in Europa, e nonostante l'Europa, nonostante l'Unione Europea lancia dei messaggi, delle indicazioni, l'Italia non si è mai accodata a quelle che sono le indicazioni che ha la Comunità Europea. Giovanni, in relazione al festival, che mole di lavori verranno presentati, quanti lavori più o meno verranno presentati, e poi se è previsto anche la presenza degli autori, incontro con essi? Sì, gli autori, quelli dei film in concorso, sono quasi tutti presenti. Bene. E vari sparsi. Quest'anno abbiamo fatto un po' di restrizione rispetto alle ospitalità, comunque ce n'è di ospiti, ce n'è 120 tipo, con meno giorni, però ci sono lo stesso. Un'ampia presenza, diciamo. Ampia presenza, assolutamente. Sì. Cercando di risparmiare, visto che il compito è quello da un po' di tempo a questa parte, per tenerci buoni, per poter lavorare meglio il prossimo, per festeggiare le nozze d'argento. Senti, di quanti film stiamo parlando? Ma sparsi nelle varie sezioni, più di 200 film, tra corti, lunghi, documentari, eccetera. Veramente una quantità notevole, sì. Senti, a questo punto diamo i riferimenti per il festival, per vedere le date, le presenze. Allora, dal 23 al 30 aprile, appunto, il sito dove si può leggere tutto giorno per giorno, momento per momento, è www.tgl-torino-genova-livorno-firenze-firenze.com. Benissimo, semplicissimo, quindi. Giovanni, in bocca al lupo, a presto. Ciao. Ciao. Giovanni Minerva, direttore della 24esima edizione del GLBT Torino Festival, da Sodoma ad Hollywood, dal 23 al 30 aprile. Andiamo avanti. Sabrina Baracetti, direttrice dell'undicesima edizione del Far East Film Festival ad Udine dal 24 aprile al 2 maggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori da Udine. Come va lì a Udine? Tutto bene, peccato che oggi il tempo non è così clemente, ieri c'era un sole fantastico, oggi c'è coperto con un po' di goccioline, per cui speriamo che domani si ristabilizzi il tempo, perché domani partiamo. Domani partite, come siamo messi? Siamo pronti, domani inizia questo viaggio che dura 9 giorni con 56 film, 9 cinematografie diverse, quindi attraverseremo altrettante capitali asiatiche, per cominciare da Hong Kong fino a Giacarta, che sarà l'ultima, che è una delle sorprese del programma di quest'anno, perché il cinema indonesiano fino ad ora nella storia del Far East Film Festival è comparso soltanto l'anno scorso con una commedia strepitosa che era Quickie Express, mentre quest'anno all'interno del programma occupa uno spazio molto importante. Ci sono 6 film, abbiamo una decina di ospiti indonesiani che stanno partendo in queste ore per raggiungere Udine da Giacarta, per cui siamo particolarmente felici di questa apertura, di questa nuova scommessa che il Far East fa proprio con il cinema popolare indonesiano. Allora, undicesima edizione, come si sta evolvendo, per esempio, rispetto alla vostra proposta, la situazione cinematografica in Asia e soprattutto in quali paesi? Ma la situazione è che quello che abbiamo capito realizzando le nostre ricerche da circa un anno, perché ricordiamo che la preparazione del Far East in realtà parte già ora stiamo pensando a quella che sarà l'edizione 2010, certo. Quello che abbiamo notato, perché anche noi ci eravamo posti questa domanda, nel senso, ha senso ancora mostrare il cinema popolare asiatico all'interno di un festival tematico, quando anche i festival maggiori ormai si sono finalmente accorti della qualità di molti di questi film. Diciamo che la domanda è stata assolutamente importante, perché così ci siamo anche noi messi di nuovo in discussione, ma abbiamo capito che invece ha veramente un'importanza enorme riuscire a mettere insieme questa vetrina, perché è l'unica vetrina che dà un'idea realistica di quello che succede dall'altra parte del mondo a livello di produzione cinematografica. Sì, anche perché, scusa se ti interrompo, in Italia arriva poco e niente. In Italia purtroppo continua ad arrivare pochissimo su grandi schermi delle sale cinematografiche, cosa che invece non accade in paesi come la Francia, beati francesi, e quindi ancora siamo un po' indietro, e soprattutto non c'è la volontà da parte di alcune case di distribuzione di rischiare su un prodotto asiatico, che però sappiamo, o perlomeno tutte le persone che vengono al Far East sanno, che questi film hanno un potenziale enorme anche dal punto di vista commerciale. Molto spesso tutto è frutto di un pregiudizio oppure di una ignoranza nei confronti di questa cinematografia, anche legittima, perché effettivamente abbiamo pochissimi documenti, pochissime occasioni per poter approfondire. Il Far East è una di queste. Sì. Comunque dicevo che facendo le nostre ricerche ci siamo accorti che quest'area del mondo, che rimane dal punto di vista cinematografico una delle più frizzanti, più energetiche, quest'anno ha reagito alla grande, alla crisi, che è una crisi mondiale anche per quanto riguarda il cinema, le sale cinematografiche e l'esercizio, e ha reagito in maniera rivoluzionaria, perché chiaramente anche loro soffrono la mancanza di interesse o la disaffezione anche del pubblico più giovane nei confronti della sala cinematografica. Sì. Ma sono stati capaci di reagire perché hanno investito su nuovi attori, nuove forme di produzione cinematografica più dinamiche, più creative, nuovi volti, quindi hanno proprio investito anche sullo star system, per cui direi che ancora una volta queste cinematografie dimostrano di essere all'altezza dei tempi e di essere capaci di guardare il prodotto, di scommettere sullo spettatore, di guardare il prodotto e l'attenzione anche locale. Sì, diciamo che hanno scommesso sul futuro, insomma, sui giovani. Sì. Sì, esatto. Io volevo citare alcuni esempi che sono esempi strettamente connessi anche a quella che è la selezione di quest'anno del Faris. Ad esempio, un film di un regista molto noto al pubblico del Faris, che è Feng Xiaogang, che è uno dei più grandi registi cinesi di cinema popolare, con il film If You Are the One, che sarà presentato a Udine fra pochi giorni, ha incassato il botteghino più di Titanic. Oppure, ad esempio, il film che è un omaggio dichiarato al western di Sergio Leone, che è l'action The Good, The Bad and The Weird, firmato da Kim Ji-won, che tra l'altro torna quest'anno dopo 10 anni a Udine, e è stato uno dei più grandi successi a botteghino di tutti i tempi per quanto riguarda il genere western in Asia, per cui direi che le risposte sono molto interessanti e sono assolutamente... E hanno un loro seguito, insomma. Hanno un loro seguito. Bene, allora, per quanto riguarda gli ospiti? Per quanto riguarda gli ospiti, è attesissimo, come dicevo prima, Kim Ji-won, perché lui era qui 10 anni fa con un film che si chiamava The Fall King sul wrestling, che aveva assolutamente fatto innamorare tutta la platea del Far East, e a quell'epoca c'era anche Park Chan-wook, tra l'altro, al Far East di Udine con JSA, e clamoroso vinse proprio Kim Ji-won l'Audience Award, per cui noi siamo particolarmente contenti di riaverlo qui con un film appunto che in fondo omaggia il nostro cinema, anche se ovviamente quello di Sergio Leone è un cinema internazionale. Quindi non si è scordato di voi e voi non vi siete scordati di lui, insomma. Era impossibile per noi dimenticarsi di lui, ma lui stesso voleva tornare già da molti anni, anche dopo i grandissimi successi, non so, ricordiamo The Bittersweet Life, che è secondo me uno dei primi film asiatici di tutti i tempi, che ovviamente opera sua, fu presentato a Cannes, per cui insomma in questi anni lui ha avuto modo di frequentare i festival maggiori, e noi ne siamo felici, quindi siamo particolarmente felici anche che ritorni quest'anno a Udine, ovviamente anche per questo. E poi abbiamo alcune star del cinema indonesiano, come dicevo prima, abbiamo delle registe donne, che per l'Indonesia, che è un paese musulmano, è molto significativo, per cui sì. Avremo Molly Suria, che è la regista che firma questo thriller psicologico che si chiama Fixie, e il titolo internazionale è Fiction, che mostreremo fra qualche giorno. Avremo anche Upi, che è un'altra delle più grandi registe indonesiane in questo momento, che arriva con una sorta di Sid & Nancy girato sulle strade di Jakarta, che è Radhi Tenjani, che mi auguro piacerà moltissimo ai giovanissimi. Beh. E poi abbiamo molti ospiti anche dal Giappone. Abbiamo la regista Sato, che firma questo fantasy chiamato K20, che presentiamo in anteprima europea, e molti altri legati anche al Pink Movie, che presentiamo in orario notturno, perché ricordiamo che il Far East ha come sempre questa tradizione di presentare i film più audaci, tra virgolette, durante le notti del Far East, che partono dalla mezzanotte per concludersi alle 2. Bene, allora, per chi volesse saperne di più, diamo riferimenti internet. Certo, www.fareastfilm.com. Abbiamo anche il nostro Facebook, siamo su Twitter, insomma siamo molto presenti sulla rete. Bene, allora, come al solito, un piacere e a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao Sabrina. Ciao. Allora, Sabrina Baracetti, direttrice dell'11ª edizione del Far East Film Festival, Udine, 24 aprile 2 maggio. Questo è Visionari, come ogni giovedì alle 14 su Radio Onda Rossa, per parlare di cinema. La scaletta potete trovarla sul sito ondarossa.info. Dal 1977, senza padrini politici, senza padroni economici. We'll be right back. Maurizio Di Rienzo, buon pomeriggio a te. Ciao caro, bene, mi hai beccato al volo, benissimo, grazie del contributo che date comunque al documentario italiano e al, insomma, alla propaganda dei giovani registi. Bravi, grazie. Sì, ti abbiamo seguito in questo Italia Doc quest'anno particolarmente. grazie, credo che sia un avverbio giusto perché è stato particolare in quanto ho azzardato qualche documentario un po' più complesso, il pomeriggio alla Casa del Cinema, il pubblico eterogeneo e non sempre gli addetti ai lavori che magari lavorano a quell'ora, però sempre pieno di persone che poi dibattono, discutono, ringraziano e conoscono film che non vedrebbero mai probabilmente, anche perché vederli in TV bisogna aspettare qualche cosuccia di cult, qualche cosuccia di Doc 3, è difficile. E 16 film, compreso il prologo di Below Sea Level, sì, un grandissimo documentario di Gianfranco Rosi fatto a dicembre, e poi da gennaio fino a ieri altri 15 documentari italiani, tutti della seconda parte del 2008 e inizio 2009. Allora, bilancio mi dicevi positivo, un sacco di gente che è anche intervenuta, insomma. Ma c'è, sì, stato dibattito finale, gli autori soddisfatti immagino. Ma credo quasi tutti, poi c'è stato magari qualche momento un po' più critico e di attrito, ma forse fa parte anche del gioco, della personalità, certo, delle persone. Quello che è stato significativo è che per Air India, per esempio, è stato lo stato maggiore di Rai 3, da Endel, Lorenzo Endel, che è il capo servizio, che, insomma, che coordina Doc 3, insomma, in qualche modo abbiamo con anche Federico Schiavi, presidente dei documentaristi italiani, un po' calcato la mano sul fatto che c'è bisogno che la televisione dia maggiore aiuto e soprattutto non faccia offerte ridicole come 3.000 euro, non parlo di Doc 3 per carità, per un documentario, quindi come diritto d'antenna e riacquisizione. Quindi è un sistema che cerca di svilupparsi nonostante le regole siano assolutamente disattese e nonostante una perdurante disaffezione, mentre si moltiplicano in tutta Italia i circuiti indipendenti a livello regionale, sostenuti dalle Film Commission, sostenuti dalle singole associazioni, dai documentaristi italiani, che fanno vedere documentari in posti i più impervi e particolari ai pubblici magari più apparentemente disattenti, e poi vai a sommare le migliaia di persone che vedono ogni anno i documentari italiani, non sono i dati ufficiali dei pochi 10-12 sì, che escono per una o due settimane a Roma, Milano, Torino, eccetera eccetera. Quindi c'è una realtà, ma se non si prende il treno, l'autobus al volo entro uno o due anni, questa realtà andrà a morire, perché i produttori non possono certo metterci del proprio senza avere un minimo di ritorno, e non bastano i festival all'estero con qualche premio ogni tanto e con una certa attenzione in crescita per il nostro documentario, che era molto indietro e adesso sta veramente facendo dei passi in avanti. Ecco, non basta questo per creare una vera continuità più che una scuola. Certo, c'è da dire che una disattenzione si avverte da tempo, per cui comunque il pregio di questa nuova ondata documentaristica è che si sono dati una struttura propria, sia a livello produttivo che a livello distributivo, sì, come dicevi tu, con un circuito, sì, alternativo di sale. C'è Terra, Emilia Romagna, c'è stato, sì, Documè a, sì, Torino, sì, c'è in Friuli, sì, Venezia Giulia, si lavora molto bene, si comincia qualcosa anche al sud. Io sono convinto che anche a Roma ci sono molte più sale possibili e qualche autore sento che si sta facendo vivo per fare qualcosa in più, che non sia insomma sotto la cantina alternativa, sì, per promuovere, sì, sì, meglio. L'Italia Doc, la Casa del Cinema, ci sarà anche l'anno prossimo, incrociamo le dita. Dopo 4 anni di semina è chiaro che qualcosa ha fatto, ma non è un problema di darsi i meriti, è un punto che bisognava farlo e qualcuno l'ha fatto. Senti, a proposito di interlocutori televisivi che citavi prima, sì, che risposte ci sono date rispetto a queste pressioni? Ma allargano le braccia, perché dipendono sempre da strutture. Paolo Ruffini, direttore di Rai 3, è letteralmente un'isola del WWF finché resiste. È chiaro che Rai 3 è una speranza, ma nello stesso tempo loro ne possono far vedere 12-13 all'anno e puntano anche su prodotti anche più da reportage che da documentario cinematografico puro. E un film come Below Sea Level di Gianfranco Rosi, che dura 108 minuti, che ha vinto Orizzonti Doc, ha vinto Praga, ha vinto Cinema Durella a Parigi, non ha ancora una distribuzione italiana, perché è una distribuzione, non voglio fare nomi se non entriamo in polemica, ma una importante distribuzione piccola, ma di documentari anche, soprattutto stranieri, non vuole dare molti soldi, non firmano il contratto e sono 7 mesi che se lo palleggiano. Mm-hmm. Ed è un film sugli homeless volontari nel deserto della California, ed è un racconto che ha attraversato 5 anni di lavoro di Gianfranco Rossi, che forse se lo poteva permettere, mm-hmm, perché fa anche un'altra attività. Ma detto questo, è l'emblema, ha vinto dappertutto e non lo si riesce a vedere in sala. Questo non va bene. Maurizio, rispetto ai 16 titoli di quest'anno, dove ti sembra stia andando il documentario italiano? Prova diverse strade, quello contemplativo dei Cotronei di Bruno Oliviero, rispetto a quello più da reportage di Brunetti, Raffaele Brunetti e le Leopardi che hanno fatto questo Air India, sì. E in mezzo ci sono anche degli autori più tradizionali, etno-global, direi quasi, come Piero Cannizzaro, che fa un certo discorso legato al cibo, legato al territorio, ma anche quello molto interessante, piuttosto ancora che Rumore Bianco di Alberto Fasulo, un magnifico lavoro sul fiume Tagliamento, cioè sui luoghi della memoria che diventano luoghi di vita. Quindi è un cinema documentario pieno di idee. Mi è dispiaciuto non poter avere Il Sol dell'Avvenire per una serie di problemi distributivi, o il documentario sulle mondine prodotto da Lab 80 e Davide Ferrari, o le mondine di Modena che cantano a 80 anni e ricordano una certa epoca, che ha fatto furore a Toronto e a Torino, però quelli li metto come se li avessi avuti, li avevo invitati, contingente non me li hanno fatti avere a Italia Doc. Il documentario insomma va verso sentieri più disparati, adesso magari ne ho dimenticato sicuramente qualcuno, però mi sembra che ci siano anche autori di rilievo che, certo, stanno cercando di sperimentare lo sperimentabile, poi, certo, naturalmente non può essere una scalata dell'Everest ogni volta. Sì, ma poi comunque rispetto alle cose che dicevi, mi sembra che un peso determinante lo rivesta anche la memoria storica. Un peso determinante, scusami? Lo rivesta la memoria storica tra i titoli. Ah no, sicuramente, sì. Non è più il documentario di montaggio di una volta, tipico, in questo senso lasciato un po' all'effetto, ripeto, archivio luce. È la memoria storica come tentativo di andare a cercare assolutamente dei legami col nostro passato per spiegare l'Italia, quello che non fa la stampa, insomma, quello, sì, che non fanno gli altri media, quello che si fa difficilmente anche nel cinema, pur nell'anno di Gomorra e Il Divo, che sono state comunque 2 eccezioni totali, come vediamo. E quindi di conseguenza il punto è affondare gli occhi da un punto di vista diverso e originale nella realtà, cercando di raccontarla senza accompagnarla, con quella oggettività soggettiva che è davvero la formula dei grandi come Alain Cavalier, come De Bardon, come è stato Joris Stevens, come autori insomma importanti, eccetera. Volevo anche segnalare, scusami ancora, Sognavo le nuvole colorate, mi sono ricordato di Mario Balsamo, la Puglia, ne ho presentati 4 girati in Puglia, il grande progetto di Vincenzo Mata che riguardava l'ex area industriale di Bagnoli, piuttosto ancora che la divertente vita di Pinuccio Rovero, Sogno di una morte di mezz'estate, il Pecchino di Bitonto, filmata da Pippo Mezzapesa. Ecco, sono possibili anche dei ritratti, perché sì, no? Sì. E quindi, oppure dei lavori come Stranieri in Patria, la memoria, l'emigrazione delle famiglie venete in Toscana, Lazio e Sardegna, che ha girato Roberto Citran, attore al debutto nella regia, o il notevole Come un uomo sulla terra, che si è visto quasi dappertutto, di Segre, Imer e Biadene, che ha raccontato l'epopea dal cuore dell'Africa fino alle coste libiche, dove vengono spesso respinti o schiavizzati addirittura per accordi, e non solo per accordi con l'Italia, moltissimi migranti, e che perdono la vita oltre che la speranza qualche volta, quindi una denuncia vera e propria. Questi abbiamo fatto vedere e non mi sembra poco. Certo. Maurizio, per chi volesse mettersi in contatto con Italia Doc, anche per proporre lavori, insomma. Io i lavori poi attingo spesso, oltre a proposte, ovviamente ne vedo tante che poi non vanno, ma più che altro, certo, alle volte non capitano i giorni giusti, i momenti giusti, a festival che ci sono, da Bellaria piuttosto che poi Locarno, Venezia, Roma meno, perché se sono stati al festival di Roma è difficile far vedere la Casa del Cinema, almeno non è bello far vedere altro, piuttosto più giusto Torino, altri festival. Che dire, comunque c'è un sito alla Casa del Cinema. Bene. E c'è qualcuno che comunque sì, insomma, è responsabile di questo, e quindi credo che sul sito, beh, io posso annunciare che dovrebbe esserci qualche cosa di speciale fino alla fine dell'anno, a dicembre il prologo di Italia Doc 2010 e poi 10 in appuntamenti come al solito, speriamo, vediamo. Bene, ci si vede in sala allora, Maurizio. Grazie per lo spazio che ci dedicate, grazie. Un abbraccio, ciao. Federico, buone cose, grazie. Ciao. Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna Italia Doc. Quest'anno ha visto la presenza di 16 documentari. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza. Allora, Manolo Luppichini, regista del documentario Fratelli di Tav, buon pomeriggio caro. Buon pomeriggio, prima di tutto co-regista, perché c'è anche Claudio Metallo. Esatto, esatto. Claudio Metallo, insomma, lì abbiamo fatto questo video, insomma, quindi siamo in due, oneri e onori di questo lavoro, per ora più oneri. Per ora più oneri, ne avevamo parlato con te, penso appena dopo la realizzazione, però ci sono delle novità e appunto riguardano gli oneri, come accennavi poc'anzi. Insomma, raccontaci un po' cosa sta succedendo. Esattamente, c'è da dire che siamo apposta, come dire, oggetto dell'attenzione morbosa, direi, degli avvocati di uno studio Astonis e Zuppini, che sarebbero i rappresentanti legali delle Ferrovie dello Stato. Questi... Allora, partiamo però prima per chi ci ascolta, dall'argomento in questione. Fratelli di Tav, come esatto. No? Allora, intanto di cosa parla Fratelli di Tav e poi le ferrovie cosa vogliono? Esatto, Fratelli di Tav è un documentario di 60 minuti che parla degli effetti collaterali del treno ad alta velocità. Sì. Quindi noi nell'arco di 2 anni addirittura, quindi dal 2006 al 2008, che è la data in cui è stato proiettato per la prima volta, abbiamo girato però mezza Italia, come diciamo anche proprio nell'incipit del video, seguendo i binari dell'alta velocità, e quello che abbiamo trovato sono delle storie molto particolari, apposta gli effetti collaterali. Noi non ci siamo messi a criticare, diciamo, l'alta velocità per sé. Quello che abbiamo fatto è semplicemente abbiamo cercato di mettere in risalto quali fossero poi le ricadute in termini economico-finanziari, in termini ecologici e in termini sociali di questa grande opera, probabilmente la più grande, anzi sicuramente la più grande opera all'italiana, come la diciamo noi, proprio perché diciamo che è un po' paradigmatica del sistema con cui sono state costruite, continuano ad essere costruite e saranno probabilmente costruite altre sì, grandi opere. Parlo del ponte sullo stretto, che è quest'altro obbrobrio che ci si prospetta davanti. Quindi è questa analisi, questo viaggio che parte addirittura arriva alla Calabria, dove parecchi lavoratori di un piccolo centro, Pagliarelle, nel Crotonese, sono praticamente stati trasferiti in massa, perché sono coloro che lavorano nelle gallerie del Mugello. Quindi sono stati in Calabria, sono stati in Campania, da Fragola, Napoli, Caserta, le zone diciamo colpite dal sisma della TAV, perché di questo si tratta, perché butta giù case, mette persone proprio fuori dalla propria abitazione e sfrutta i lavoratori in modo terribile. Poi siamo stati chiaramente a Roma, nella zona di Tor Sapienza, della Rustica, dove anche lì di danni ha fatti e continua a farli continuamente, quindi Firenze, il Mugello, Modena, insomma abbiamo percorso tutto fino ad arrivare alla Valsusa, che è chiaramente un po' la punta dell'iceberg, intorno è il luogo di cui si è parlato di più. In realtà il TAV ha fatto e continua a fare grossi danni in tutta Italia. Oh, e a questo punto arriviamo alla questione legale. Chiaramente noi per completare, per dare insomma autorevolezza al nostro prodotto, ci siamo rivolti alla nuova Quasco, che è una sorta di istituto di ricerca che fa tutta una serie di lavori, fra cui anche valutazioni dei costi delle grandi opere, fatta da, in questo caso avevamo cioè si è dimostrato molto disponibile l'allora direttore della Nuova Quasco, che si chiama Ivan Cicconi, che è uno di questi espertoni, cioè ovviamente il più grande esperto in Italia per quanto riguarda i costi del TAV. Ebbene, noi abbiamo attinto quindi alle loro fonti, tra l'altro dati già ampiamente pubblicati e resi noti, perché contenuti in un libro pubblicato da Odradec e su varie riviste, tra cui quella della Banca Etica, eccetera. Quindi questi dati che noi abbiamo riportato erano già abbondantemente pubblici. Ebbene, noi abbiamo riportato quindi che il costo complessivo del TAV è di 87 e spicci miliardi di euro, ok? Sì. E questo qui lo abbiamo scritto su uno dei cartelli che apposta sono contenuti nel video. Ebbene, questi avvocati ci contestano, quindi le Ferrovie dello Stato dietro loro ci contestano questa cifra, affermando che la cifra reale si aggiri intorno ai 48 miliardi di euro, quindi in pratica mancano 40 miliardi di euro che non si sa che fine abbiano fatto. La notizia anche per gli italiani penso sia abbastanza interessante, sapete? Sì. In questi giorni specialmente che ci si sforza a sostenere il dramma in Abruzzo o tutte queste altre spese previste, cioè sapere che ci sono 40 miliardi di euro vacanti, no, che non vengono dichiarati come spesa, è un po' grave. Evidentemente le Ferrovie pensano che i prodotti televisivi, come è successo per esempio per il caso di Travaglio, che insomma con tutte le proporzioni però era simile, finché era pubblicato su carta quel dato non dava fastidio a nessuno, nel momento in cui lui ne parlò, il legame fra Schifani e alcuni mafiosi, questa cosa divenne un fatto tale da procurargli molti guai. Nel nostro caso qualcosa di simile, sempre con le dovute proporzioni. Quindi, nonostante fossero già stati pubblicati questi dati abbondantemente, appena sono disponibili su un supporto video, quindi evidentemente di più facile diffusione e di più efficace impatto sulla coscienza e sulle consapevolezze, questo qui viene osteggiato in modo, devo dire, abbiamo ricevuto delle minacce anche abbastanza fastidiose, insomma, molto un po' pseudo mafiose, proprio come genere di affronto. E niente, noi adesso abbiamo fortunatamente avuto un grosso supporto da parte del Laboratorio della Democrazia di Torino, che raccoglie molti docenti del Politecnico di Torino e altre personalità dell'ambito degli intellettuali e degli accademici di Torino e non solo, tra cui Vattimo, Mercalli e molti altri, lo stesso Cicconi, Claudio Cancelli, insomma tutta una serie di persone che su questa materia hanno studiato parecchio, che ci hanno confermato assolutamente, anzi, quello che diciamo, questa cifra che noi diamo, 87 miliardi, è ormai già sottostimata, perché nell'ultimo anno già i costi sono ulteriormente lievitati. Evidentemente quello che fanno le Ferrovie dello Stato è conteggiare solamente i costi praticamente dei binari e dei lavori di base, quindi tutta un'altra serie di costi, sono quelli delle opere di compensazione, sono quelle delle linee aeree, delle linee di trasformazione e tutto un altro corollario di spese che sono necessarie affinché il treno ad alta velocità funzioni, non vengono incluse in questo conteggio, e quindi gli italiani pensano che questa cosa costi praticamente la metà, ma quando qua si parla di metà, posso, diciamo, si tratta dell'ordine dei 40 miliardi di euro che si sono volatilizzati. Bene Manolo, allora speriamo di avere espresso buone notizie da te. No, intanto una buona notizia però ve la do io, le good news del caso, che finalmente Fratelli d'Italia in DVD è distribuito da una piccolissima e molto coraggiosa e generosa casa di distribuzione che si chiama La Malastrada, Malastrada Film, sono dei ragazzi di Catania, e hanno preso coraggio e hanno deciso di distribuirci. Quindi se voi andate, adesso vi do, preparate carta e penna in questi casi, su www.cinemautonome.org, ripeto, cinemautonome.org, e vi fate strada nel sito e troverete insomma tutto il materiale e la scheda per poter prenotare e ricevere comodamente a casa una copia di questo già insomma bistrattato documentario. Senti, tra l'altro domenica scorsa c'è stata una proiezione al Forte Prenestino. Esatto, ne continuiamo a fare molto, ecco, in sordina, ci devo sono dire. Sono perché... prossime date? Non ancora non si sa, c'è un'altra, la prossima data, aspettate che qui vediamo. Allora, un altro elemento che volevo darvi è quello del nostro blog, ma attivo da un po' di tempo, che si chiama Fratelli di Tav. noblogs.org, sulla piattaforma di autistici ben conosciuta. Allora, abbiamo avuto una proiezione, allora sì, la proiezione è proprio oggi a Villa Faletto in provincia di Cuneo, quindi chi ci sente via in streaming da Cuneo. Tu hai fatto il militare, ricordo, Federico, no? Sì, certo. Esatto. Ah, che tempi. Che tempi quelli. E quindi a Villa Faletto a Cuneo stasera alle ore 21 sarà proiettato Fratelli di Tav. Su Roma adesso ci stiamo organizzando per fare un'iniziativa un pochino più grande, proprio che con il contributo anche del Laboratorio per la Democrazia di Torino, proprio per fare un ragionamento su come sia come sia strano strana questa evaporazione di 40 miliardi di euro, insomma, a fronte di quello che succede in Italia in questi tempi, ovviamente dovrebbe sollevare almeno qualche perplessità, insomma. Bene, allora, in attesa di proiezioni e di nuove, intanto ti saluto e ti abbraccio. Grazie mille, speriamo la prossima volta di parlare più del film che degli, serenamente, che degli effetti legali che lo seguono. Okay, grazie a tutte e tutti. Manolo, ciao. Manolo Lupicchini, regista, co-regista del documentario Fratelli di Tav. Andiamo avanti. Piercarlo. Ciao Federico, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Visionari. Come stai? Molto bene, molto molto voce bene. Voce squillante, sì. Infatti. Sì, assolutamente. A me la primavera dà nuovi stimoli, nuovi spunti, mi sento benissimo, assolutamente. Allora, con te per parlare di qualcosa in uscita e qualcosa già in programmazione. Per questa settimana tu hai visto, mi dicevi prima, solo Fuori Menù. No, in realtà mi sono ricordato, ecco. Ma perché in realtà è una visione che risale all'ottobre scorso in occasione della festa del cinema, che io ho visto anche il ritorno di Guy Ritchie, Rock and Roll, insomma, su cui tra l'altro mi piacerebbe sapere una tua impressione, perché su Guy Ritchie ci sono solitamente due schieramenti, cioè c'è chi lo detesta come la morte e chi invece... Ne parla più che bene. Tu, allora, Roma l'ho perso e queste proiezioni ultime, devo dire, siccome ero in un periodo abbastanza denso, mi sono affidato a un giudizio e mi ha detto: lo posso perdere? Mi ha detto sì. Ah, bene, perfetto, ok. Beh, allora però io potrei, sento la tua, dai. Potrei metterti in difficoltà, allora. Ma io semplicemente dico soltanto che a chi è piaciuto il Guy Ritchie dei primi tempi, dei tempi pre-Madonna, per intenderci, insomma, Madonna è una sciagura per la settima arte, anche quando va a sposare i registi, a quanto pare, non solo quando prova a fare l'attrice. A chi è piaciuto insomma il Guy Ritchie di Lock and Stock o Snatch troverà in questo Rock and Roll tutto quel tipo di cinema, insomma, questa versione pulp un po' portata all'estremo, un po' anche sul videoclip, per intenderci, per sì, quanto riguarda anche la regia, e a chi piace quel tipo di cinema si divertirà come un matto, perché in questo Guy Ritchie sembra proprio che si è voluto sfogare. Ricordiamoci che Il matrimonio con Madonna gli aveva portato una pellicola decisamente inguardabile, che era il remake di Travolti da un insolito destino di Lina Wertmüller, e che era un film che definire imbarazzante penso che gli si fa un complimento. Per fortuna l'ho perso, quindi anche quello. Esattamente. No, ecco, vedi, lì invece posso venirti incontro e dire: non recuperarlo in nessun modo, assolutamente. Invece questo rock and roll che si muove tra la speculazione edilizia londinese, tra l'altro con un personaggio, una specie di ricco magnate russo, proprietario di una squadra di calcio, che insomma è un riferimento abbastanza esplicito a Roman Abramovich e al suo Chelsea. Garic si diverte a prendere in giro tutti questi aspetti e sinceramente è un film divertente, godibile, girato in maniera veramente pazzesca. Lui si è proprio voluto divertire ed esaltare, è proprio questa la sensazione, si è voluto sfogare della libertà che ha potuto finalmente abbracciare dopo anni di oblio, in cui quella grandissima cantante, ma quella donna devastante che è Madonna, lo aveva fatto quindi piombare. Puro divertito intrattenimento. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Guy Ritchie, poi è quello il cinema che fa, insomma. Lui ha preso quel cinema action reso famoso in America, che negli ultimi anni stava arrancando proprio in America, e lo ha virato anche sull'autoironia, sul prendersi anche meno sul serio, e ne ha tirato fuori, ovviamente poi tutto trasportato in Inghilterra, che ha anche il suo fascino, anche questo, e insomma... divertente e puro intrattenimento, un cinema quasi inutile se non fosse appunto così divertente, parliamoci chiaro, però insomma assolutamente a chi piace si divertirà da matti. Bene, allora passiamo a Fuori Menù. Venendo invece a Fuori Menù, la Spagna si conferma un posto in cui fare cinema deve essere divertentissimo ed esaltante, perché anche in questo caso sono venuti a Roma per presentarlo il regista Javier Camara l'attore Javier Camara e il regista Nacho García Velilla, e sono due personaggi veramente divertenti e trascinanti, così come il loro film, perché Fuori Menù è questa commedia che parla di uno chef omosessuale che si ritrova tra i piedi, veramente in un periodo cruciale per la sua carriera, due figli nati da un precedente rapporto di copertura, da un precedente matrimonio di copertura, con tutto quello che questo comporta, quindi le difficoltà di relazionarsi con questi due ragazzi, di cui uno è adolescente e giustamente lo detesta per essere sparito per 16-17 anni più o meno, però appunto tutto virato con questo tono che hanno gli spagnoli di veramente prendere un po' in giro il politicamente corretto, è una cosa che loro sanno fare, e soprattutto rispettano molto, secondo me, l'intelligenza dello spettatore nel farlo, perché fino a un certo punto poi il politicamente corretto risulta veramente stupido per certi aspetti, e invece loro riescono a dare un aspetto, a sottolineare queste tematiche comunque difficili, magari complicate per noi qui in Italia, come può essere l'omosessualità, come può essere appunto il rapporto con dei figli adolescenti, soprattutto per quanto riguarda aspetti come appunto il sesso, i rapporti di coppia e tutto quanto, e lo trattano bene. L'unico problema magari in un film come questo è che certe dinamiche sono un po' abbozzate, non c'è molto sviluppo, ci sono dei rapporti trattati in modo un po' sbrigativo, proprio per però dare spazio a quella che è l'importanza del tema trattato. E questo un po' è un limite, perché un limite che magari non si ritrova in un regista più navigato come può essere Almodovar, come anche Isabel Coixet, o altri registi di questo tipo. Però insomma, vedere un film spagnolo rinvigorisce, almeno per me, il pubblico italiano si trova, secondo me, a respirare una boccata d'aria fresca ogni volta che esce una commedia spagnola che affronta determinate tematiche, ed è molto molto importante, cioè, e questo Fuori Menù non è esente da questa, non esce da questa, costante del cinema spagnolo, pur con i suoi difetti comunque, cioè, sì, tra i piccoli difetti, se vogliamo definirli così, io ho notato anche un ricorso a un repertorio classico per quanto riguarda il ritratto gay, e anche sì, e anche un po' una leggera misoginia nel dare questo ritratto di donna, così un po' umorale, in cerca, esatto, sempre di un compagno. Sì, si cade molto nel cliché per certi aspetti. Proprio è quella semplificazione, esatto. Che dà un po' fastidio, perché in effetti si poteva benissimo evitare, soprattutto si poteva approfondire meglio, più che altro, perché magari si può partire con un personaggio del genere, però poi ogni personaggio può avere uno sviluppo che porta da altre parti. Esatto. Questo viene fatto con il protagonista per certi aspetti, con i due figli, ma appunto invece ciò che non viene trattato appunto sono questi personaggi secondari, che poi tanto secondari non sono, perché alla fine la donna che tu hai citato è la più stretta collaboratrice del protagonista, interpretato da Javier Camara, e quindi è un vero e proprio coprotagonista nel film, e questo un po' si sente, insomma, l'avere eccessivamente abbozzato troppe situazioni. Anche il rapporto con i figli, io l'ho trovato un po' altalenante, cioè questi figli prima lo odiano, poi improvvisamente lo amano, poi improvvisamente lo odiano di nuovo, ed è veramente, non c'è spiegazione, uno resta un po' sbalestrato nel vedere gli atteggiamenti emotivi di questi ragazzi. Però appunto, ripeto, è un film che ha il coraggio di mostrare anche l'ambivalenza della Spagna, il fatto che la Spagna venga vista adesso all'estero, e in Italia specialmente, come questa nazione estremamente emancipata da un punto di vista culturale e sociale. Però appunto nel film ci sono poi questa figura dei due genitori anziani del protagonista, che sono, l'ha detto poi Javier Camara in conferenza stampa, sono poi lo zoccolo duro di un retaggio che ancora è forte in Spagna, e che magari all'estero non è percepito. La Spagna è sì il paese delle grandi riforme sociali, dei matrimoni tra omosessuali e tutto quanto, ma è anche un paese che l'omosessualità fondamentalmente non l'ha ancora digerita, è un paese fortemente cattolico e macista. È macista, esattamente, e quindi il film ha questo pregio, cioè il pregio comunque di mettere in risalto questa doppia anima nelle varie cose. Quindi per questo comunque dico che il cinema spagnolo è sempre molto interessante da vedere, anche appunto film meno riusciti come può essere questo Fuori Menù, però sono sempre un'idea di un pensiero che non è limitato ad una visuale, ad una prospettiva unica, ma che ne abbraccia sempre tante, quindi è importante da questo punto di vista. Tra invece film già in programmazione, mi sono ricordato, sì, Fuga dal Call Center sarà in programmazione al Politecnico Fandango. Io lo consiglio perché è veramente un piccolo film che vale. Vedi la sintonia, io stavo proprio per parlare di Fuga dal Call Center, bene, in programmazione. Bene, no, sono veramente d'accordo con te da questo punto di vista. Film sui precari, soprattutto in questo periodo, ne escono tipo tre in contemporanea, una vera... questa settimana esce Generazione 1000 euro. Esattamente, è una vera invasione. Però Fuga dal Call Center è un film che mi sento sinceramente di consigliare. Federico Rizzo è il regista, viene dal documentario, ha fatto alcune docu-fiction più che veri e propri documentari, però comunque insomma... E ha realizzato questo film che per certi aspetti è geniale. Ha suddiviso sostanzialmente la vita di un lavoratore precario in alcune tappe fondamentali, partendo dalla laurea ovviamente, fino ad arrivare appunto al disastro sia privato che lavorativo, legato appunto a lavorare all'interno di un call center. Perché il precariato lavorativo precarizza anche la vita, questo... Certo. E l'ha fatto con due, secondo me, soluzioni geniali sotto molti punti di vista. La prima è stata quella di introdurre praticamente ognuna di queste, tra virgolette, sezioni in cui il film è diviso, anche se poi in realtà non si tratta di appunto un film a episodi, per intenderci, è comunque una trama che scorre lineare, però appunto c'è questa netta separazione tra situazioni tipiche della vita del precario. L'averle fatto introdurre a veri lavoratori precari, a veri lavoratori di call center, con interviste fatte a loro, che descrivono i singoli aspetti, quindi magari c'è la serie di interviste sul colloquio surreale con questi manager di call center, tendenzialmente caponcelli e un po' ignoranti anche, che però vogliono insegnarti come vivere la vita, come insomma come si sta al mondo sostanzialmente. In secondo luogo poi l'aver condito tutto questo con un tono grottesco e surreale che all'inizio fa sorridere, nel momento in cui però vengono fatte ascoltare queste interviste di lavoratori del call center e ci si accorge che tutto quello che appare appunto grottesco e assolutamente incredibile è poi realistico, è poi vero, il sorriso diciamo che si trasforma in una smorfia di anche di rabbia per certi aspetti. Anche perché la conoscenza di fondo, cioè lui ha lavorato per 3 anni in un vero call center, esatto, e ha raccolto un migliaio di interviste dal nord al sud. Esattamente. E tra l'altro lui poi lo ha detto anche qui nell'incontro che c'è stato subito dopo la proiezione, sostanzialmente ha detto che ha voluto fare questo film un po' per esorcizzare la possibilità di tornare a lavorare in un call center, quindi per far capire un po' quanto può essere mostruosa quel tipo di esistenza per chi non l'ha vissuta. Ed è un film veramente che merita la visione, un film originale, un film particolare, un film che ovviamente proprio perché è un bel film italiano ha dovuto faticare 14 camicie, non le proverbiali 7, per essere prodotto, per essere distribuito, hanno partecipato una serie di enti locali, si è cercato di evitare le strade consuete della produzione e della distribuzione italiana che sostanzialmente poi fanno riferimento ai 3 canali, cioè da un lato la RAI, dall'altro il Ministero, dall'altro ancora Medusa sostanzialmente. Un film che appunto ha voluto evitare questa strada, che si avvale della collaborazione di Luca Bigazzi, che ha lavorato al minimo sindacale per poter prendere parte a questo film. Luca Bigazzi, direttore della fotografia, per citare un film su tutti, Romanzo criminale di Michele Placido, tra quelli più famosi degli ultimi anni, insomma. E veramente sì, sono d'accordissimo con te, per andatelo a vedere. Adesso esce al Politecnico Fandango, è ancora al Metropolitan se non sbaglio, a Roma dovrebbe essere ancora lì, forse no, perché ho sentito l'ufficio stampa stamattina e mi chiedeva proprio di dire che è al Politecnico, perché evidentemente dal Metropolitan lo hanno tolto. È stato tolto, sì, dal Metropolitan, sì, e allora sì. Insomma, sempre di una sala sola si tratta, si tratta solo di spostarsi, quindi no, veramente andatelo a recuperare per chi non l'avesse visto, e appunto scegliete questo tra quelli che escono in tematiche di precariato e call center rispetto ad altri che escono. Io non anticipo giudizi, ma Generazione 1000 euro, come tu hai sentito dei commenti su Rock and Roll che ti dicevano di star nella larga, io su Generazione 1000 euro ho sentito commenti più o meno simili, ah, cioè bene. Chi mi parlava di un film carino ma niente di più sostanzialmente. Sì, sono d'accordo. Allora caro, un abbraccio e a presto. Un abbraccio a te Federico e un saluto a tutti gli ascoltatori ancora. Ciao ciao. Ciao. Oh, quasi in finale, proviamo un ultimo collegamento. Buon pomeriggio a te. Anche a te, come stai? Bene, tu? Bene, bene, abbastanza. Sei un po' ovattata, non so, c'è un rimbombo. Sì, ti sto sentendo con il Bluetooth. Ah, ok. Senti, allora, cosa ci dici dei film in uscita? Io non ho visto molte cose di quelle che ho visto riportate. Me le ripeti un attimo, vedere che cosa magari possiamo... Earth, la nostra terra, le avventure del topino Despo, fuori menù, Generazione 1000 euro, Houdini l'ultimo mago, Rock and Roll e Tulpan. Allora, ecco, siamo sicuri che c'è Houdini anche? Non lo so, però mi riportavano così sul sito per... Cosa? Pronto? Sul sito per il quale scrivo riportava questo, poi non so se... Ah, ho capito, perché non ci sono state visioni, tu non so se l'hai visto. No. Ah, ecco, no, solo per quello. Allora, l'annuncio è che non ho visto niente. Uh-huh. Pronto? Non ti sì. sento per niente, Federico. Io ti sento bene, però. Ma ogni tanto va via la voce. Allora, non ho visto niente ed è fantastico tutto ciò, perché ho visto tutti i film che usciranno più avanti o che sono già usciti, questi no. Beh, però uno di quelli già in sala a questo punto proponilo. Sì, guarda, ho visto il film di Francesca Archibugi. Sì. Questione di cuore. Devo dire che è un film buono, un buon livello. Poi su questo film voglio aprire una parentesi. Comunque, tendenzialmente diciamo che Francesca Archibugi, a parte l'ultimo Scivolone di 2 anni fa, quel film girato in India che non mi piacque per niente, sì, sono d'accordo. Ne rimane sempre comunque un buon livello di introspezione, no? Nelle sue storie, nei suoi personaggi, nelle descrizioni, così, e cerca anche di così tentare nuovi percorsi. In questo caso mi sembra che abbia avuto un grandissimo intuito nella scelta degli attori protagonisti e non solo i protagonisti, secondo me. Ci sono dei momenti nel film, magari io non parlo del film perché immagino ne abbiano già parlato gli altri come descrizione, come ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Esatto. Sì. Ecco, ci sono dei momenti in cui magari cade un po' il ritmo e magari si vengono banalizzate alcune cose, però insomma, ecco, non è un film perfetto, ma accettabilissimo. Sì, io l'ho messo tra quelli da vedere, insomma. Ecco, io la cosa a cui voglio invece porre una critica rispetto a questo film è come è stato lanciato il film. Cioè, il film viene proposto al pubblico, e questo secondo me è interessante dirlo per come ci muoviamo da un punto di vista della comunicazione, come una commedia. Il trailer che passa in televisione, che viene proposto al cinema, è ma spesso succede, Sì, ma infatti io non voglio prendere lo spunto da questo film per fare una critica anche in generale, no? Cioè, vengono proposti al pubblico, e sappiamo il motivo, ovviamente, però dei film che non sono quelli che poi andranno a vedere. Cioè, vengono date delle immagini, delle suggestioni tranquillizzanti in qualche modo. O comunque diverse, tranquillizzanti o meno sono diverse. Sì. Perché questo? Perché io sono andata a vedere un film di cui sapevo vagamente l'oggetto di riferimento, e sono andata a cuor leggero, appunto, di cuore, così. E mi sono trovata un film invece completamente diverso da come viene proposto. Cioè, io comunque faccio questo lavoro, quindi bene o male mi aspettavo anche delle cose, però mi immagino una persona qualunque che va al cinema, si aspetta una commedia, si trova invece un film molto diverso che può anche andare a toccare delle corde personali. Cioè, io per esempio sono rimasta abbastanza toccata da questa cosa, che è una cosa mia personale, cosa che se tu vedi un trailer in cui tutti ridono, tutti scherzano, pensi che sia una cosa, no? Sì. Una commedia in cui si ride, una nuova commedia. Invasione. Non è una commedia, non è una commedia questo film, non lo è per niente. Sì. Non so se sei d'accordo. No, d'accordissima, ma spesso sono... Beh, io però la critica la voglio fare Com'è? No, fai benissimo. Perché comunque... Sono ingannevoli i trailer, certo. Assolutamente, sono... sappiamo che le motivazioni sono legate al marketing, alle vendite, alla distribuzione, però... ma l'invito si dovrebbe fare a chi questo lavoro lo fa, però io posso capire che insomma tanto non cambierà niente, ma almeno il pubblico magari... andare ad informarsi in modo più approfondito, magari attraverso anche le recensioni che vengono fatte, non a caso, no? Perché visto che c'è una proliferare di informazione sulle cose, non adeguarsi a quello che viene così proposto semplicemente in televisione o dai flani, è abbastanza ingannevole. Insomma, io ho voluto prendere il caso di questo film che veniva presentato comunque come un film, una commedia con un retrogusto comunque amaro, e facendo vedere anche delle immagini che non sono per niente quelle che poi portano avanti, cioè sono quelle che fanno vedere nel trailer, sono delle immagini assolutamente pochissimo rilevanti nel film. Non sono la colonna portante, no, del film. E posso capire che fa brutto magari affrontare dei temi scomodi, però non mi sembra neanche corretto nei confronti della regista, della produzione, degli attori, cioè di tutti quelli che il film l'hanno fatto, si trovano un'altra cosa, no? Sì. Senti, ecco, Anna, ti devo salutare perché siamo andati oltre e ci sentiamo con più calma la settimana prossima. Va bene. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ci sentiamo allora giovedì prossimo alle 14, sempre per Visionario 87.900, la modulazione di frequenza. Trovate tutte le informazioni sul sito ondarossa.info. Buon proseguimento.